Posta mi fu la questione. Strappato vessillo con animo apolide e il bisogno come asta, nei labirinti dispersa, un nome da dare alle cose, ad averle, corda di violino tesa fra il banale e l'insignificante corto dire, o la problematico quadrupede e senza di certezze stagionali, senza preghiera o bestemmia. Sdegnato non risposi e fui gettato. Solo ti trovi ed un concetto fioco, posate di anamnesi e un piatto di copioni, a porre te stesso un calendario, un senso.